Ruota libera. Viaggio nell'Italia che pedala. Di Alessandra Schepisi. Tanta voglia di sdraiarmi su questa terra così calda, di dormire, di sognare che questo fiume lentamente mi porta tra i monti e le pianure e mi culla come un bambino fino al mare. Siamo Ostiglia, sul Canal Bianco. Adesso arriveremo a Mantova di notte, ma passiamo per un punto che c'è l'isola dei cigni, proprio piena di cigni. Staranno dormendo stasera quando passiamo noi, perché passeremo col buio. Cigni, ma anche aeroni cenerini, fenicotteri, martinpescatori e qualche picchio ci racconta di aver visto Riccardo Tamani, capitano della chiatta fluviale Ave Maria, durante la navigazione attraverso il parco del Delta del Po. Dove comincia il mare? E quando mi sveglierò sarò migliore. Navigare e pedalare, sostare e poi ancora navigare da Mantova a Venezia e da Venezia a Mantova lungo il Canal Bianco che scorre parallelo al fiume Po. Bici e barca è l'ultima novità in tema di cicloturismo, la possibilità di alloggiare su imbarcazioni che diventano hotel galleggianti per poi con la bici andare alla scoperta del territorio. Formula nata in Olanda, sviluppata in Francia e importata in Italia da Giro Libero, primo tour operator italiano specializzato in vacanze facili in bicicletta che ogni anno fa pedalare circa 20.000 persone con i suoi oltre 200 itinerari, 18 milioni di fatturato nel 2019. E con il suo fondatore Pierpaolo Romeo, in una splendida e insolita giornata autunnale di qualche settimana fa, siamo saliti a bordo della nave fluviale Ave Maria Vecchia Draga degli anni 70, che serviva per scavare sabbia nel Po, completamente riprogettata e adattata per il cicloturismo, e vogliamo raccontarvi questo viaggio. Ci troviamo sul Canal Bianco Fissero Tartaro, un canale navigabile, e in questo istante stiamo passando in prossimità della Conca di San Leone, anzi Biconca di San Leone, che ci permette di raggiungere il Po, che viaggia parallelo a noi a circa 300 metri più a sud, e stiamo andando verso Mantova su questo canale artificiale che tra circa un'oretta, grazie a un'altra conca di navigazione, ci permetterà di entrare sui laghi di Mantova. Di solito l'itinerario da dove parte e dove arriva? Il nostro itinerario di vacanze in bici e barca, che dura circa una settimana, parte da Venezia e arriva a Mantova una settimana. La settimana successiva parte da Mantova e arriva a Venezia. Le tappe quali sono? Le tappe lungo il percorso dove noi ci fermiamo a dormire sono a Zelo, piccolo paesino delizioso in provincia di Rovigo, poi ci fermiamo ad Adria e il pernottamento ultimo prima di andare a dormire a Venezia è tra Chioggia e Pelestrina. Si arriva proprio a Venezia? E si arriva proprio a Venezia, noi andiamo ad ormeggiare nella grande isola della Giudecca, nel retro Giudecca, con la laguna che ci fa da panorama infinito. Lo splendore di Mantova, il fascino del piccolo paese di Zelo e poi San Pietro Polesine per assaporare in un caseificio locale il grana padano, e un gioiello bergantino con il suo museo della giostra e della tradizione popolare diretto da Tommaso Zaghini. Qui è nato un distretto di produzione di giostre che comprende la bellezza di 68-70 imprese che producono giostre delle più svariate qualità, dalle giostre piccole per bambini e per famiglie, anche alle giostre di vertigine, quelle che fanno urlare e gridare i giovani in tutte le fiere, in tutti i parchi, insomma. La giostra è qualcosa di straordinario, è lo straordinario che entra proprio nella banalità della vita quotidiana. E poi, sempre pedalando e navigando, Ferrara, Adria, Chioggia e Venezia. Un approdo che ha qualcosa di veramente straordinario, ci racconta la guida per cicloturisti Michela. Arrivare a Venezia, quando hai fatto una settimana, è un crescendo di emozioni, un crescendo di paesaggi, un crescendo di amicizie che si creano e arrivi a Venezia. Noi andiamo a Murano, facciamo la visita, poi nella navigazione facciamo l'inchino davanti a Piazza San Marco, Palazzo del Doge, con un aperitivo, uno spritz, eccetera, siamo sul deck. Voglio dire, è la prima volta che l'ho fatto, ho detto wow, è bellissima, è spettacolare. Cioè non esiste un altro modo per arrivare a Venezia, secondo me. La bicicletta te. Percorsi facili, con pendenze quasi assenti, tappe giornaliere comprese tra i 35 e i 50 chilometri, possibili anche con i bike e con la barca sempre al seguito. Di nuovo Pierpaolo Romeo, fondatore di Giro Libero. Il grande vantaggio è di avere questo hotel galleggiante che segue il percorso in bici, quindi fare e disfare la valigia ogni giorno non serve più, abbiamo la tua cabina con il tuo spazzolino da denti sempre dentro lo stesso bicchiere che ti segue lungo tutta la settimana. Sono soprattutto stranieri? Tutti stranieri, americani, australiani, inglesi. Gli anglosassoni stanno, come dire, monopolizzando le presenze su queste due imbarcazioni che abbiamo. Stiamo prenotando già il 2021. Quindi per gli italiani non ci sarebbe più posto? Non c'è chance. Possono andare da qualche altra parte, no? Anche all'estero? Sì, l'Olanda è una delle mete preferite dagli italiani per fare bici e barca. Oltre a fare questa cosa sui fiumi, da qualche anno si può fare anche in mare, e la destinazione più gettonata è la Croazia. Lì ci sono una miriade di isole, isolette lungo tutta la costa croata, e ci sono delle imbarcazioni anche qui molto confortevoli, dei caicchi, forse improprio questo termine, motonavi, bici a bordo, e sì, proprio Inselhupfen si chiama in tedesco, Highland Hop in inglese, in italiano fa un po' ridere, saltellare da un'isola all'altra alla scoperta del territorio usando la bici. È una vacanza soprattutto a luglio e agosto, anche per famiglie. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins a biciclette. E poi c'è la Francia, con la sua vasta rete di canali navigabili, da decenni meta di turisti appassionati di vacanze fluviali, anche con bici al seguito, per pedalare tra castelli della Loira, i vigneti della Borgogna, le scogliere della Bretagna e i piccoli borghi della Provenza. Francia ha una rete incredibile di canali navigabili. Qui allora queste péniche di misura standard, creato nel 1800 dal ministro Freycinet, i 39 per 5 metri, dove appunto con un'imbarcazione di questo genere si può navigare dal nord al sud della Francia, dall'est all'ovest, e queste chiatte sono state molte trasformate in hotel galleggianti, come le due che abbiamo tra Avignone e Aigues-Mortes, dove facciamo una quarantina di cicloturisti a settimana la scoperta di territori francesi sulle tracce di Van Gogh, perché tocchiamo Arles, tocchiamo Saint-Rémy, Avignone stessa, posti deliziosi. Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. Il cicloturismo solo in Italia è un fenomeno in costante crescita. Nel 2018 il giro d'affari è stato stimato in 7,6 miliardi di euro, un'opportunità per scoprire anche gli angoli più nascosti del nostro paese alla velocità lenta del pedale. Partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Io penso che il turismo in bicicletta sia destinato a crescere. Nella mia testa penso sempre ai pionieri del turismo balneare, questi inglesi che andavano in Costa Azzurra a prendere il sole. Oggi il turismo balneare è diffuso in tutto il mondo. Ecco, il sogno mio nel cassetto è che questo modo di far turismo si diffonda come il turismo balneare, che porti ad andare alla scoperta del territorio grazie a sto mezzo stupendo, silenzioso, pacifico. Sì, la bicicletta rimane imbattibile. Una bici la si ama come l'ultima delle fantasie, c'è uno scatto che ti chiama come il fischio che hanno le frenesie. E noi ci fermiamo qui, potete sempre riascoltarci su podcast. Grazie ad Alessandro Chiappini per la parte tecnica. Alla prossima domenica. Ciao.